male. Una mini moto, che adesso si interessa. Ah, non mi ricordo, no, non mi avanti. Oggi con questo documento c'è stata la propagazione, noi siamo venuti. Ma mi senti? Gianni, mi senti già? Cosa? Ma mi senti? Stiamo chiamando un ricordo. No, non ti ho sentito, infatti è tutto scomodato. Bene, buonasera. Ma ero distratto e avevo altre cose nella testa. È così, sei conveniente, ragazzi, a essersi impegnato oggi, ragazzi. Speriamo bene. Stavo cercando di piazzare la lavatrice, però ci sono le istruzioni dentro e non riesco a aprirla. Per parlare, no, per aprire, rispegnersi la luce prima, se no non apre, capito l'altro? Già lo so, ma il guai che ci sto provando in tutti i modi, siccome non gli ho messo acqua perché dentro ci sono le istruzioni, e l'ho messa così e l'ho accesa, però non riesco a aprire, deve essere che forse perché non c'è l'acqua ma fa lo scatto. Se lui dice pongo lì, ma è un casino perché le istruzioni si bagnano tutte. Sei nuova, tu giri la manopolina, piano piano, vedi quando la fai girare appena appena, la blocchi e dopo la si spegne la luce e apri. Se la blocco io non si apre, perché si dovrebbe spegnere da sola. No, tu la blocchi, la fermi. Così che sai un pochettino, pochi secondi e dopo come si spegne la padina si apre, l'apri, capito? Se no è in solito, sono tutti così, Mario. Ma no, se la blocco io non si apre, vai tranquillo. Deve girare, deve fare le cose, la centrifuga, come finisce la centrifuga, si blocca da sola e allora apre. Però sino che non si blocca la centrifuga, no, cioè se non arriva a fare quello scattino, la matrice non la apre mai. Ma lo scatto glielo fai fare tu alla manopola, Mario, non succede niente. Glielo fai tu piano piano a gradazione, capito? Sai quei scatti come sono, no? E tu li fai fare i scatti piano piano finché non è terminata. Ok, qui ci riprovo, là. Perché mi stava facendo uscire di testa, no, perché dentro c'è il tubo nuovo per collegargli l'acqua, ci sono le istruzioni dentro, c'è il coso della garanzia. Ma è così, Mario, secondo me basta passare la manopola a gradazione, piano piano, e devi trovare il punto suo, e si va a prendere lo scoppacchetto, non la posso aprire senza mettere l'acqua io la lavatrice, che è per forza, devi aprire per forza. Cappa, è un gran casino, no, perché quella là stava lavando, era piena d'acqua, come l'ho aperta perché l'ho portata a cosa per aprirla, ho tolto tutta la roba piena d'acqua, poi come la stavo muovendo ne farà da vedere in terra, ho fatto un casino dietro. Allora hai ragione che mi sopra pensiero questo Mario, allora, un po' come bisogna fare per aprirla, ma è perlomeno io so che è così, dopo per il resto non è che me ne intenda, ma più per giù so che è così, perché io alla mia faccio così, capito? Se io la voglio aprire la tengo, si spegne la padina e l'apro. Mario, la mia è così. C'è il ritorrettore che tu la puoi anche bloccare, la puoi fermare. La fermi. Stai un poco, finché non si spegne la padina non apre, però una volta che si spegne l'altra la padina via, allora si apre. Se avrei avuto il cappellino, già mai me l'avrei tolto e ti avrei fatto l'inchino. La vecchia, anche se era in moto, era piena d'acqua, l'ho portata al coso dello scatto, l'ho aperta perché la conoscevo già, sapevo dove scattava, dove non scattava, per fargli la situazione. L'ho aperta, ti sto dicendo, la vecchia. Mi ho tolto tutta la roba, me ne farà di un montone d'era perché la lavatrice era piena. Però era piena burrera. E così che, come ne ho tolto tutto, ho allagato il bagno, capito? E ho fatto un casino vero. Ho messo la nuova al posto suo e l'ho accesa, cioè cercando di fargli fare gli scatti, però se non c'è il libretto degli istruzioni, io non lo so dove fare lo scatto per poter aprire e ci stavo andando a tentativi, capito mi hai? Perché se non fa la centrifuga, che si blocca da solo, anche se io so per dire la centrifuga la fa al 13, la metto appena appena prima del 13, le faccio fare quei due o tre giri lì e si blocca da solo. Una volta che si blocca, giustamente come dici tu, si spegne la lampadina, però se no non trovo il punto esatto dove poterla fare bloccare. È un macello, perché ne ha tre di pulsi, perché c'è per il bucato un grosso, diciamo così, quello di lavoro, c'è per il bucato delicato, tipo la biancheria intima, mutandine, pedalini, via dicendo. E poi c'è quello per la setta, oh, che cavolo è. E se no gli faccia pure un riesce a fare la bricca. Ah, che tu c'hai ragione. Io reso più o meno quello che so è così, che questa io la blocco, anche se è piena, se la voglio bloccare, la blocco, e se la voglio aprire apre, certo che se c'è acqua non la posso aprire, se non me ne scende l'acqua in terra, e ti faccio buttare l'acqua prima ci faccio, la faccio girare e si butta l'acqua quando l'acqua è fuori del livello del cestello, e allora la blocco e allora la posso aprire, se no me ne scende l'acqua. Mario, penso che tutti gli usi hanno tutti così. Dopo, Mario, c'è una lavatrice speciale quella nostra, scusa Mario, Ma Maria, allora non hai capito niente. Puntino di domanda bello grande. Allora, la vecchia mi si è bloccata, è andata in corto circuito, così che non andava più né avanti né indietro. La lavatrice era piena, stava lavando ed è piena d'acqua. L'ho portata sì al coso per poter aprire, per togliermi la sicura, però se la lavatrice non funziona, era non ne carregheggia proprio, se ne va la tutta in terra e boh, se ce la vuoi bucare, se no gli ce la puoi bucare roba. Ma, mai. Sai come dici tu, non lo so, mai. Vedo un po' allora, cerca di studiare come aprirla. Da qua è un ribus, da qua è un ribus. Magari essendo lì, io penso che ci riuscire a aprirla. Dopo, non lo so, adesso c'è a diversa tra la questione, ma non credo. Vedo un po'. Prova a vedere Mario, vedrai che riuscirai a aprirla. Sì. Non il rubinetto dell'acqua, non aprirlo mai, attacca un rubinetto, attacca così, ma per un poco, non molto, no, perché tanto quando tu giri la manopola, quella si è spalancato per camminare, cammina, però appena per camminare fai l'altro scatto, finché non si sblocca, non trovi che si fermi la lavatrice, capito? E quando si ferma, allora tu lasci un po' il giro, vedi un po' se si spegne la padina, prova a fare così, ho capito Mario cosa vuoi dire tu, ho capito, non è che l'ho capito. Prova a vedere un po' così. Gappa, sì, ma ci sto provando, cioè, questo qui è successo pochi momenti fa, stavo finendo di raccogliere l'acqua da terra, con lo slancio piano piano, purtroppo, se una cosa che si guarda quando sta funzionando è un casino, perché giustamente l'acqua è dentro e non la puoi togliere, e così che nulla, io l'ho portata lì al termine e come stai dicendo tu, l'ho aperta, ne ho tolto la roba, però mi farà da vinci di credere in terra. Cappa. Positivo. Se ragazzi qui da ragione Mario. Vabbè, ma che ne su Luigi, come mai Mario? E oggi è sabato e molti, non dico tutti, ma molti sono in giro a fare le spese che si fanno di solito nel fine settimana, perché poi si lavora e magari non c'è il tempo, si è stanchi, non se ne ha voglia, e via dicendo. E molti invece di quelli che sono meno stanchi, cioè di quelli che contano le ore e non fanno nessuna fatica, quelli magari saranno a passeggio. Cappa, va bene, io appena me l'ho fatta stamattina. Dopo ho pranzato, me le sono scese in campagna e ho cominciato a fare qualche cosa in campagna, nonostante che c'era quel venticchio, ma era un po' da me che le toccava poco. Ok, riposa un attimino che è arrivata la truppetta. Gappa, io ho sentito il cane che abbaiava qualche volta sotto. Vai con comodo, Giammarisci, io già sono qua. Ora mi impazzisco un altro poco con quella tricera lavatrice. E a me, dormi, e bene, riserva, come va? Ah. E allora, parla bene la voce piena, in modo che non si confonda, no, perché sei entrato timido come entra in riserva. A ver. E allora, Luca, tutto bene? E c'è, però io ho messo la lavatrice a lavare, sai com'è? Quando si avvicina al fine settimana che c'è il carico, io ti ho messo la roba a lavare. Quando era metà lavata, bella piena l'acqua, brum, è andata in corto, mi ha fatto saltare pure il contatore e niente. L'ho portata alla fine, l'ho aperta di quella maniera lì, perché tanto non c'era verso di farla aprire. L'ho portata alla fine. L'ho aperta, però come l'ho aperta ha fatto pruff, tutta la vapura. Ehi, vabbè, adesso piano piano mi cerco di aprire la nuova perché è tutto dentro. Però c'è il coso e se non trovo la combinazione per poterla aprire non ne cavo piedi manco con le istruzioni perché sono chiuse dentro. Deve arrivare alla fine del lavaggio, perché qui come finisce, stacca e si spegne. Dopo di un poco, quando ha finito, come la mia vecchia che ho buttato, dopo di un poco fa quello scatto, ti toglie la sicura e puoi aprire. Però adesso, piano piano ci sto provando, devo trovare il punto giusto dove fa il coso della centrifuga, metterlo a scopo praticamente, siccome il scopo lì non c'è scritto, è tutto a tacchettine, però niente, adesso devo provare piano piano, fare finta che sto scatenando una cassaforte. Ne aveva ragione quella lì, aveva 15 anni che mi stava sopportando a lavarmi la roba. Io ce la sto buttando, io ce l'ho buttata perché chiami il tecnico per aiutartela, magari non lo so come vibra, come coso, può essere pure che se si è attaccato un filo abbia fatto corto e mi ha fatto saltare il contattore, può essere pure che non ha preso idea, però quando chiami il tecnico vuoi 50.000 lire per la chiamata. 50.000 lire, adesso voglio 50 euro. Poi ci fanno l'intervento, l'urgenza, hai capito? Una cosa e l'altra, ho detto, ma chi me lo fa fare? Intanto è vecchia, c'è 15 anni, la piglio, la butto e me ne compro un altro, è tutto lì. E no, io ho questo televisore grande, che all'epoca l'avevo pagato 2 milioni e qualche usettina. Avevo il gigante, quello a schermo grande, 32 pollici, però grazie a Dio 15 anni sto sempre funzionando bene, e sigilo dopo, sennò cazzo mi si brucia. No, molte volte ti si spegne perché c'è qualche cosettina o magari la polvere, sai com'è, siccome il televisore non lo apri mai per spolverarlo. La polvere gira, capito? E molte volte viene la polvere cosa, magari e ti si spegne. Però qui ne avevo uno, in camera di mio figlio, e che cos'era? Dopo tanti anni si è spento, e cos'era? Era soltanto un fusibile che c'è dietro una latacciera, il Philips. L'ho portato al clinico, quando l'ho portato si è messo a ridere, perché mi conosceva, ma mi ha regalato la televisione bagosa, ma ci ha messo un fusibile. Ha pigliato, aperta, ha pigliato il pennellino, gli ha dato una spolveratina così col pennellino, gli ha tolto un po' di poco, un po' di cose, gli ha messo il fusibile nuovo e stava andando. Beh certo, secondo la chiropurti ti trova mille scuse e poi ti va a sbagliare pure un montone di denaro. No, ma questo qui è un amico, non è che... Però quando gliel'ho portato si è messo a ridere, perché mi ha detto, il fusibile che c'era dietro la tastiera, la polvere e la cosa, ha depositato, fino a quando non è saltato, tutto lì. Mario! Yeah. Luca, sono Luca. Papà. Ma è stato, perché non lo sento io a Luca? Se non lo senti vuol dire che non ti ha lavato le orecchie, Natali. Luca, ma io non lo sento quando sta parlando. L'hai capezzato. Comunque Luca ha detto che a te ti ascolta bene. Ma chi Luca è però? Luca! Non mi viene, Luca, Luca Flipper. Ah, forse per quello non va solo. Abbassa quella musica, non abbassa l'amplificazione, che ti stai portando tutto dietro, che quasi quasi non ti capisco. E adesso mi capisci? Così va meglio. No, perché ti avevi l'amplificazione troppo alta e entrava più la musica che la tua modulazione. Comunque Luca che glielo sto ascoltando io. E boh, non lo so, adesso ti faccio parlare un po' certo, però non lo capezzare. Avanti Luca, che Natalino dice che non ti ascolta. Natalino? Oh. Adesso, se adesso l'hai ascoltato. Negativo. L'altro giorno lo ascoltavo bene, non capisco perché non lo sto ascoltando adesso. E boh, non lo so, lui a me qui mi sta arrivando Santiago 9. Bello, pulito, tranquillo, e niente, io pensavo che tu l'ascoltassi, invece niente. Luca, ha detto che l'altro giorno ti ascoltava, però non... oggi non ti ascolta. No, Luca, io la verità, sei vicino a me, mi dovresti arrivare molto più forte, perché se io apro la finestra sono davanti a casa tua praticamente, perlomeno sei lì dove più o meno sto individuando io, e niente, sei di fronte a me, stai arrivando appena a Santiago 9, se avessi dovuto arrivare non dico a fondo scala ma almeno 9.20, 9.30. Aspetta che forse è sotto. Ciao Antonio, sì, non va. Ciao Enzo, buonasera, qui, ci sei, mi dici, ti vedo, ciao Franco, ciao, non ti vedo, il mappa, buonasera. Scusate, quello è quando ci sono proprio i microfoni per sentire, sto parlando in due metri, ciao, grazie, scusate, niente. chiama di cu. No, non lo puoi stare a comprare. Ui, guardare dove è morto. Poi adesso se ne è andato anche quel poco di sola che c'era. E niente, vengo ancora più freddo. Vabbè, buona compere Luca. Ci sentiamo più tardi. Ciao ciao. Ragazzo, non subito, tanto quella ragazza mi rimango, vincere in moto. Ma fai questa commissione, torno subito. Ciao Luca. Ma se ti devo fare su così, blu. Comunque sì, e sei di fronte a me. Io adesso più o meno ho capito dove sei. Cioè, le finestre, diciamo, sopra la banca, là. Luca, maneggiando Salezzo Mario, sta maneggiando Luca Cipre. Ok, chi altro c'è? Chi altro c'è? Illuminami Mario. È entrata Natalina, però gli ha scullato il telefono e non è andata a rispondere al telefono. Poi c'è Luca. Poi è entrato Luca Manicomio, però anche lui stava andando a fare delle commissioni e ha detto che viene subito. E niente. Ah, è andato a spendere i soldi, che glielo ha fatto fare? Boh, ripere, aiuto, allunga la mano, ha detto di no, maneggendimi. E noi lo lasciamo maneggiare, intanto a noi non se ne subita. Vabbè, e io intanto capisco che qualcuno ha maneggiato, boh, e che ricompensa di che vuoi che è buono, boh. Eh no, molte volte tu lasci l'apparato, magari spolverando, che di bomba, succede che magari qualcosa viene toccata e non esci più bene come dovresti uscire. No, stavo dicendo a Luca che qui ha una fucilata da me e mi sta arrivando a Santiago 9, mi sarebbe dovuto arrivare almeno 9.20, 9.30. Che linea d'aia, diciamo sì. Ma dovrebbe essere più libero da me, ma il segnale varia, certe volte va più, certe volte va meno. Ehi, con quell'antimino sterrazzino non è che puoi ottenere tanto, Sì, però la radio potrebbe migliorare molto, molto, molto. Evidentemente o non ci riesce, o no. Sai com'è? Bisogna vedere le cose come stanno. E lui già se ne intende un po', Un giorno non è frequenza. Don Marì, adesso c'è parecchi anni, non dico che viene 20 anni, ma di tutto sì. Sì, vabbè. Che? Io c'è come faccio io, mi portate in funzione così e basta. Ah, intanto che mi dice, non mi piace a meno. E non mi va. No. Vabbè, se mi chiede se uscendo male, se uscendo basso, posso aumentare, se riesco a aumentare, se no tengo e metto un'altra per vedere un po' se va bene. Scappa, tu già c'è l'imbarazzo della scelta, è vero. E se non va bene, in modo da non toccare niente, piglia sta chi quello della macchina. È vero, c'è bene lo stesso, quello lì non deve manovrare nulla. Ehi, quelli piccolini ce ne sono 3 o 4 ce ne sono di quei piccolini, che no. In certe volte se è nemmeno voi. Ma capita che faccio delle di questi piccoli. Ah va, sto scendo con la faiette e 40. Vedo un po', certe volte magari pulendo, faccio abbassare, ma chi viene? Boh, e non stai scendo più bene. Scappa di positivo, ma l'ho già detto dall'inizio io quello. Magari passata tua moglie, ok, spolverando, sai come succede molte volte, mettere in ordine. Le donne già lo sai come sono perfettine, se non è tutto a suo posto, ok, ti vanno subito i rimorsi. Avvio, ma se non ti puoi ammugare col peruccio, avvio. Niente, magari spostato, facendo, ha toccato qualcosa, può succedere a chiunque, niente. Poi uno va lì convinto e poi magari c'hai il refrigerio chiuso, c'hai il macchinario chiuso, anziché aperto, tutti quei pomellini che ci sono, così. Ma, Felipe! Adesso si sta appena più forte come segnale, e secondo me anche del radio. Qui si è arrivato quasi a 9:10. Cioè, ma di poco però, di poco. Sì. Di poco, è 9:40 a me comunque. A me arrivi 9:40. Dopodiché vedo un po'. Ma che mio fa il coso lì, come si chiama lì? Il multimo di due mi fa quel lavoro a me. Che va in negativo, Però va in negativo da qua, ma però fuori si vede che arriva in positivo, ecco, perché deve fare qua così, così in negativo? E quello senz'altro, prova a fare un passaggio, Luca. Ma no, guarda che sei positivo, A me sei positivo, a 9:40, 9:41, di un tacchetto aumenta, così che è positivo da me. Mario, vedo un po' l'apparecchio tuo. Ciao! Forse è nato, abbasciati, abbasciati, che mi rompi le orecchie. Ah, o ti metto lo sgambetto e ti faccio rotolare. Ciao Gianni, ben entrato. Appagata, buonasera a tutti, dai, il rientro Mario. Avanti, buonasera già, ben entrato. Sempre spaccato i timpani, mi sai che, madonna che. Io ho bisogno di comprare tappini a farmacia, quando appare tu almeno sei tranquillo, mi devi avvisare, almeno mi metto i tappini. Aspetta, vediamo un po' Luca. Luca, prova a fare quella prova, vediamo un po' da Mario se arrivi positivo. Da me torna, ma un pelino indietro, ma un pelino. Ma è così. Quando aumenti vai negativo, però evidentemente più di quel tanto non può andare, evidentemente che a me mi fa quel lavoro così, vai negativo, sullo switch, sul rosmetro mi va in negativo, mentre questo con la faiette, questo sta andando in positivo, un po' strano, che ma mi sarà l'apparecchio eventualmente che ha ridoccato la che cosa, allora fa quel lavoro, penso io, Diversamente non può essere, perché l'ultimo di due pensate è stato toccato perché hanno aggiunto qualche canale in più. Vabbè, ma provate un altro strumento a vedere un po'. Ma io penso che c'è più dall'apparecchio che dall'antenna, Sì. Perché se lo strumento ti dà il positivo e invece sul rosso è negativo, non lo so. Io avrei provato un altro strumento. Passa qua, te lo do uno domani, lo provi e vedo un po', ti renderai conto se dal rosmetro o dall'antenna, ma penso sia più dall'apparecchio. Perché questo a me, l'ultimo di due, mi va in positivo o attacchi un rosso, attacchi sull'altro o qualsiasi strumento che attacchi mi va sempre in negativo, così che per un po' me la questione da uno all'altro potrebbe cambiare, per cui prova c'è un altro strumento, bisogna provarli tutti, capito? Bisogna provarli tutti, perché certi apparecchi purtroppo sono fatte magari per camminare dall'altra parte e allora qua dando più potenza allora fa questo lavoro, capito? Ti mettere un metodo per poterla farla andare in positivo, bisogna mettere in mano, ma chi li mette mano? una persona per competenza, o così. Comunque l'attore è entrato, Sergio Maria, Luca, quando è entrato, vedi come, cioè, praticamente come ieri, avanti ieri. Ma io provo, dai, vediamo. Ma vedi qua, porca, ma che si nota, va bene, segnale la radio l'ultima, segnale 9, del dipolo. E va bene, dai, lascialo così. Da 9.40 a 9.41, questi che è i picchi positivi da mettere là. Di un tacchetto, capito? Il tacchetto che ti dà e ti dà il positivo, capito? Perché quando non parli, però quando parli aumenta, quando non parli diminuisce quel tacchetto, capito? Luca! Vediamo un po' già dove è arrivato. Allora, Pierru, guarda che avete tempo suo, in questo freddo veramente ci vuole. Tu l'hai mai detto? Vai, hai visto Mario, hai visto Gianni come si fa sentire? Quadrato, buonasera, il sottoscritto, il barbiere, avanti signor Mario. Mario attaccato alla matrice ancora che mette lì i quadrati che gira. Ok, allora Felipe mi pare che ha fatto un attimo il curriculum, si vede un po' Felipe. Sembra bomboletta, sì, va benissimo. Vabbè, quanto ti arriva Gianni a te? No, tu quanto arrivi in casa, tu mi faccio lo strumento, 9.40 sì, qua, Gio Maria. 9.40 addirittura, sì, bobo. Vita. Vuol dire che oggi quella qua vita che ho bevuto, ragazzi, di campagna mi ha rinforzato allora oggi, Roberto. A parte Claudio, oggi sei più forte. Roberto. Dimmi Luca, tu sei così buono, no? Scappa, mi ascolti? Santiago 8.5. 8.5, 8.5, già va bene. Però non sei basso di là, Luca. Molto basso, molto. Si sente la differenza rispetto all'altra. Questa è più forte allora, ho capito. Sì, già lo credo. Se no fai 42, sì, Luca. Guarda che tu devi lamentare. Sì, 9.42. Ma sono in pochi che arrivano così a quella distanza, Vabbè, in linea d'aria sono vicini. Roberto non ti arriva. Mario, come ti arrivo io? Vabbè, stavo dicendo, Luca, scusa che mi stavano interrompendo. Ho detto, Roberto, quando ti arriva a te? Adesso esattamente vediamo un po' quando è contato. Avanti Robè, canta. 1, 2, 3, 30, 40, 50, 100, 1000, 10.000. Roberto qua! 9, 30 e quasi 31, dai. Non gruppi. tutti, vedi qui il signor. Fatela brava, se no vi faccio schiattare, eh? Ecco, la devo smettere, boh, ah, va, dimmi tu. Mario, a lui va la parte che lo vale, com'è? Un casino, non riesco a aprirla. Cazza, vai, va la lucchetta, no? Ah, vuoi un mezzo piccolo, vai la rugango. Capito? Bagno! Sì. È tutto quello della 17? È quello della 17, c'è un quello della 17. sapevo chi sarà Patrizia. Con due burroni, ragazzi, subito la bloccano, ragazzi, il cestello. Ma no, ma il fatto che non ha freno, non ha freno, ecco, perché è all'accesa, però lo sportello non apre. Ma chi non apre? Se non trovi il punto suo non aprono. Io che si spenga la lampadina, allora dovrebbe aprire. Ma allora la spesa la lampadina, ma lo posso dire la lavoro. Tutte male, vai, a parte i scherzi, bisogna farle tutte, tentare tutto, ma io perlomeno, io so che è così, se, siccome si accende, però che si spegne quella lampadina, perché c'è una lampadina che, anzi sono due lampadine, una sta per sempre accesa, l'altra quando sta funzionando, quando si ferma che si blocca, allora la lavatrice si leggermente si spegne quella lampadina, allora puoi aprirla, adesso lo so come è quella lì. E non sono tutte precise, ma in solito ci sono tutti a contatti elettrici per aprire, capito? Vedo un po' Mario, vedo un po', eventualmente fammi fischio, già vengo con molto picco. No, non si tira, c'è un taglio al plasma, amico, si vede l'aria non mai rotta, c'è un taglio al plasma. Lo bruciamo o c'è un taglio perfetto? Che vedi, oggi ho portato il cannello, robe, un cannello brucia di sé, e si rabbri. Ma è chiaro, dai, sicuramente sta sbagliando qualche cosa. Ci sono due tipi di lavatrici, quelle che stanno l'interruttore sopra la cartella, oppure la classica apertura normale sul cestello, sullo globo. Ma quelli non ci sono più, no? Adesso sono tutti a contatti elettrici, capito? Finché non si spegne con la lampadina, no, perlomeno, poi non so se c'ha altri contatti, boh, lo metto in venire da 60 miglia a venire di questa lavatrice. E non sono tutti uguali, ognuno ha due cose sue, però di solito la maggior parte è così. Quando sta funzionando, basta fermarla, per esempio la nostra è così, anche se sta funzionando, che tu ci devi mettere la roba dentro, l'importante è che fai scaricare un po' l'acqua, che quando apro il sportello non esca fuori l'acqua. E dopo si spegne la padina, allora la puoi aprire, se no non apre assolutamente. La mia è così, dai. No, quella è una produzione per la questione delle cariche elettriche, perché se la lavatrice tira l'acqua, la prima terra, che intenzione che poi mi regge, è fatta apposta, con tutto è così. Però esistono quelle che stanno l'apertura con l'interruttore, separato. Tanto ci saranno, ci sono, perché prima era così. C'era un caso, dai, la aprivi, anzi, prima la potevi aprire direttamente con la maniglia che c'era proprio sullo sportello. Hai capito? Quando era ferma, mentre stava camminando non apriva mai, però quando era ferma si poteva aprire. Però adesso sono tutti rimodernati, per cui e tutti i contatti lì, ci dai. Sì, adesso ci sono le norme IMQ, quella delle prevenzioni degli incidenti domestici, per cui sono tutte con queste protezioni. Ok, vedo un po' c'era Flipper, mi partito, vedo un po' se c'è ancora Flipper. Flipper non c'è. Gianni, ci sei ancora? Per il cuore del parlamento siamo arrivati, ci sentiamo, ciao. Ok, allora, vedo un po' Luca, sì sì, quello ci sta mangiando le noccioline senz'altro. Mario si apparrende con la lavatrice e tu cosa stai combinando con robe? No, sono arrivata. Ma non è che mai la compara con quelle più giovani, no? Poi sono due scaprillo. Vabbè. Poi comunque ci ho fatto anche delle che il cestello bloccato, in realtà sai che quello abbiamo preso lui ultimamente, è fatto la tacchino gira questa cosa. E lo dico, beh, dei burloni, bloccato il cestello, ma forse lo giravano il cestello. E perché lo provavo a mano? E che già danca, ma basta là se non andava più, si muoveva appena, e poi c'era bloccato. Ho letto, ho visto che c'erano due bulloni, a Rubrino camminava. E la Rubrino, chissà la tagliata a Fruttiglio, la pagatura primaria le sale, il suo dentro, quindi se non comprendi come si funziona, le prima a brilla, se no non lo vedi. E infatti, chi altro c'è rimasto, avanti. Ma mi pare che come la facciate, il Rubrino, a brilla, anche se non è la che non è comprende Moruggia. Ascolta, fai una telefonata, gli attrezzi ancora là. Ah, se forse aperto. Fai una telefonata lì qua, ha del malo per te che c'è questione non mabbia la matrice. Così. E poi cosa ti dicono? Oh Mario, che mangiare la matrice? Indesit. Aspetta un attimino, che la mia mi sembra sia indesit, te lo dico subito. che hanno i contatti uguali, là, quindi è un po' male. No, ce n'era una che sembrava un altro mare e costava quasi 700 euro. Quanto l'ha pagata Mario? Quasi 300, mi ha tornato i soldi per pigliare un caffè. 400? 300. 2? 3. Buonasera a tutti, chiudo, a ci sentire eventualmente domani, ciao a tutti! Ciao Gianmarie, buon QRT, e non mangiare troppo, mettiti in dieta, che sei diventato tondo! Ha ragione, ma vuol dire che mangio poco, accetto il consiglio, dai, accetto il consiglio, ciao a tutti! Anche io sono dopo che metto una cosa con la pizza adesso! Maria, ciao, buona carica, le frutte, ciao. Buona pizza anche a te, Robè. Dai, ci sentiamo tra un po', Mario, dai, a dopo. Ecco, io già sono qua. In ogni caso, vai a prendere, Mario, se ci sono difficoltà con le telefonare, così si evitano i danni gravi. Anche il telefono. Dove l'hai acquistata quella lavatrice? Un euro. Non puoi telefonare, dici, un euro l'ho acquistata con la lavatrice poco fa, come funziona? Visto che ci sono istruzioni dentro, non penso che ci siano problemi, ti passeranno qualche commesso, basta telefonare. Il commesso non saprà meno di me. È vero, il commesso è lì per vendere il buco. Loro quando gliele mettono in esposizione sono già aperte. Vabbè, prova a chiedere, ci sarà qualcuno pratico, dai, non penso che sia così difficile. Prova a chiedere, non costa niente, guardi le pagine gialle, una linea telefonica, se c'è, lo telefono. Io interrompo, ci sentiamo dopo, ciao a tutti. Capa di rosmetro. E poi ricordo l'ovo. ragazzo di Catalesi. Ho fatto uno squillo, però prima era libero e non mi ha risposto, adesso risultava spento. Sì, mi ha giocato a due nomi, si è scaricato, faccio di squillare. Non ho visto neanche... Ah, sono picchiato attorno. Poi ti hai chiamato tu, ho chiamato la lì, ah, la lì, ho la lì, no. E 4. Ma io ho dimenticato 4 mattina al telefono. Mi sono dimenticato il 3 e addirittura anche l'altro. Sono in casa adesso, ascolta a me, io adesso mi sto cambiando perché sono quanto sono atto. Mettiti quell'apparecchio in macchina, il grande, i microfoni che mi possono piazzare e il pulsante del metro e 100. Io adesso ti sistemo questo qua a 50 e ti porti questo qua a casa e utilizzi questo. Così provo a fare le prove e vediamo come esce. Kappa, io adesso mi metto tutto in macchina e vengo là. Niente. Vabbè, ok, là. Momentaneamente qui a casa mi rimarrà largo, là. Vabbè, poi c'è quell'altro. Che bello, Argus. Qua sto titolando adesso. Tu mi dai quello lì, così io ti prendo questo, ti dico questo. Siccome gli ho colati i fianchetti, che lo sai. E così ti dico questo qua, perché me lo regolo, ma è tutto, perché a voi ti rompono le balle, ti dico che non male. Ma tu guarda, a 10 o 50, come lo vuoi? A 10? Abbiamo grossa, noi della Lega ce l'abbiamo duro, il coso in finale. Kappa, là. Allora, adesso cerchiamo tutte le cose e mi metto tutto in macchina, là. E ascolta, ma tanto mi sto cambiando io qui, sono tutto sudato, io vado dalla, appena siamo da lavoro, la terza casa devo guardare a piedi. Aspetta. Fischia. Non fischia, non fischia, non fischia, non fischia, non fischia, non fischia, non fischia, non fischia, non fischia, non fischia, non fischia, destra, sinistra, sinistra, destra. Ok, a 50 a posto, il Mike Gate lo sto lasciando a 1, cosa abbiamo fischiato, va vabbè, comunque tu lo metti a 1, siamo fischiati. Prima me la fai vedere lì, dai. Sì, no, vabbè, ho detto io che vieni, tanto che... Ancora, perché la coppia, no, per continuare, perché devi fare i pantaloni, se no tu mi devi buttare, poi mi violenti, io non